mia vita è come il volo di una allodola, che uno specchio che scintilla fa cadere giù. Le sue ali stanche sono fragili. Ninna nanna, per un volo che è finito. Camminare in questo mondo non è facile. Se tu sei diverso gli altri non capiscono. Io non so come farò a difendermi. Se è importante dimostrare chi non sei. Dovrei nascondere.